I regali magici. C'era una volta un povero contadino chiamato Ron che viveva in un piccolo villaggio con sua madre. I soldi finirono e così decise di andare in un villaggio vicino, più grande, per cercare lavoro. Sua madre gli diede 3 pezzi di pane per pranzo. Prendi questo e fai attenzione e prenditi cura di te stesso. Non ti preoccupare, mamma. Presto troverò lavoro e tutti i nostri problemi saranno risolti. Ron camminò per ore nella foresta. Era quasi sera e ora era stanco e affamato. Quindi decise di riposare nella foresta. Trovò un'enorme quercia e si sistemò su uno dei suoi rami per proteggersi dagli animali. Ma improvvisamente davanti a lui apparvero 3 cigni provenienti dal lago di fronte. Quando arrivarono a terra, si trasformarono in angeli. Ron guardò stupefatto. Uno degli angeli lo vide e lo indicò. Guarda, un umano! Vuole essere umano, lo dovrebbe poterci vedere. Ma deve essere davvero bravo uomo, perché solo i bravi uomini possono sopportare la nostra luce. Che cosa stai facendo in questa foresta a quest'ora della notte, umano? Sono andato via di casa per cercare lavoro in un villaggio o in una città vicina. Se hai dovuto lasciare casa per cercare lavoro, devi avere un gran bisogno. Ecco, prendi questo. Ovunque metterai questo ramo, apparirà una casa. Questa casa avrà tutto ciò di cui un uomo può aver bisogno. Letti per dormire, vestiti nell'armadio, cibo sul tavolo, soldi, qualsiasi cosa. Grazie, grazie mille. Ora devi lasciare questo posto, perché a noi angeli non è permesso parlare a lungo con gli umani. Certamente, con il tuo regalo posso mettermi comodo ovunque. Grazie. Quindi, Ron andò via e camminò nella foresta. Improvvisamente, al calar della notte, vi furono grandi tuoni e lampi e cominciò a piovere. Ron stava per appoggiare il ramo a terra, quando improvvisamente sentì un suono. Qualcuno stava tremando. Ron andò in quella direzione e vide una famiglia tremare sotto la pioggia. Cos'è successo? Perché siete tutti fuori sotto la pioggia? La nostra casa è stata distrutta da un fulmine ieri sera e ora non abbiamo un posto dove vivere. Siamo poveri e non abbiamo soldi per costruire una nuova casa. I miei figli avranno fame. Ne hanno più bisogno di me. Ecco, prendete questo. Questo risolverà tutti i vostri problemi. Grazie. Come possiamo ripagare la tua gentilezza? Fatemi passare la notte qui. Domani mattina mi rimetterò in cammino. Puoi rimanere qui tutto il tempo che vuoi. Ron uscì di casa la mattina e riprese a cercare lavoro. Camminò tutto il giorno nella foresta e di notte decise di riposare. Questa volta trovò una piccola grotta a fianco della collina e decise di passare la notte lì. Proprio mentre stava per dormire, vide la stessa strana luce nel cielo. I cigni atterrarono e si trasformarono di nuovo in angeli. Uno degli angeli lo vide. Lo stesso umano, ancora. Ci stai seguendo? E cosa ci fai qui comunque? Non ti abbiamo dato una casa la scorsa notte? Allora perché sei ancora nella foresta? Oh, non potevo tenere la casa magica con me. E Ron raccontò agli angeli tutto ciò che era accaduto la notte precedente. Quindi eccomi di nuovo qui a cercare un altro villaggio per trovare un altro lavoro. Bene, quello che hai fatto ieri sera è stato gentile e anche sciocco. Non possiamo darti di nuovo qualcosa di magnifico come la magica casa, ma possiamo darti questo. Un piatto che non ti lascerà mai affamato. Ti darà tutto il cibo che tu vorrai per tutte le persone per cui lo chiederai. Prendi questo e questa volta tienilo con te. Non darlo via. E ora, per favore, lascia questo posto. Grazie mille. Lascerò questo posto immediatamente. Ron camminò nella foresta e presto arrivò in un piccolo villaggio nel mezzo di essa. Improvvisamente vide un vecchio che camminava con un fascio di erba in testa. L'uomo era così vecchio e debole che quasi cadde per il peso del fascio. Ron lo aiutò. Zio, non dovresti portare un peso così grande a quest'età. Lascia che ti aiuti. L'uomo portò Ron a casa sua nel villaggio e Ron gli portò il fascio d'erba. Grazie mille, figliolo, sei stato di grande aiuto. Zio, perché lavori così duramente? Non hai nessuno che ti aiuti? Mia moglie e io viviamo da soli. Se non lavoro, dove guadagnerò abbastanza soldi per comprare il pane? È vecchio e debole. Tutto ciò che riesce a fare è tagliare un po' d'erba. Ma anche questo ora sta diventando difficile. Sembra che non mangi abbastanza da giorni. Non c'è da stupirsi che tu sia così debole. Prendi questo, zio. Questo ti darà tutto il cibo che vorrai. Qualunque piatto tu voglia. Potrai mangiare a tuo piacimento e diventare di nuovo forte. Ma questo è tuo! Non possiamo prenderlo! Ne hai più bisogno di me. Sono ancora giovane e forte. Posso facilmente trovare lavoro. Tienilo con te. Permettimi di passare la notte qui e di condividere un pasto con voi. Quindi Ron chiese al piatto di dare loro una zuppa calda, uno sfumato di verdure e una torta di frutti. E tutti e tre mangiarono felicemente assieme. La mattina dopo, la vecchia gli preparò del cibo per il giorno e Ron partì di nuovo per la foresta. Camminò tutto il giorno e la notte. Trovò una piccola cavità su un albero abbastanza grande per potersi sdraiare. Non appena si sdraiò, vide la stessa luce nel cielo. I cigni atterrarono e divennero angeli. Tu? Ancora? Ora, cosa ci fai qui? Dove ti abbiamo dato un piatto che produce cibo ieri sera? Per favore, dici che non l'hai dato via. In realtà l'ho fatto. La vecchia coppia ne aveva più bisogno di me. E Ron raccontò loro della coppia che aveva incontrato la sera prima. Ah, ora cosa ti daremo? Va tutto bene, non dovete darmi niente. Dobbiamo, ogni volta che incontriamo un essere umano che può sopportare la nostra luce, ma attenzione, questo sarà il nostro ultimo regalo. Prendi queste scarpe, ti porteranno dove vorrai in un attimo. Oh, queste saranno così utili. Per favore, prendi queste e lascia questo posto e tieni questo regalo per te. Grazie. Quindi Ron indossò le scarpe e desiderò di raggiungere il prossimo villaggio. Immediatamente scomparve dalla foresta e apparve nel villaggio vicino ad una locanda. Ron decise di passare la notte lì. Mentre cenava alla locanda, fu raggiunto da un altro viaggiatore. Ti dispiace se mi unisco a te, amico? Niente affatto, vieni. Sono John. Qual è il tuo nome e da dove vieni? Sono Ron e sono venuto qui in cerca di lavoro. E tu? Ah, ho lavorato duramente negli ultimi 5 anni, lontano da casa, e non vedo l'ora di tornare. Infatti, riprenderò il mio viaggio immediatamente dopo la cena. Viaggerai di notte? Non sai quanto sia difficile essere lontano da casa, Ron. Mio figlio mi aspetta. Sarei arrivato 2 giorni prima se non fosse stato per la pioggia e le tempeste. Sembra che pioverà anche stasera. Non mi interessa. Devo andare a casa. Vieni con me. Indossa queste. Perché? Queste scarpe ti porteranno a casa in un attimo. Non ho fretta di andare da nessuna parte. Ne hai più bisogno di me. Così John indossò le scarpe e svanì all'istante e arrivò a casa sua. La mattina dopo, Ron andò in giro per il villaggio in cerca di lavoro, ma non lo trovò. Di notte, tornò alla locanda. Andò nella sua stanza. Stava per addormentarsi quando vide di nuovo la stessa strana luce, i cigni e gli angeli. Ci stai sicuramente seguendo. No, non lo faccio. Sembra che le scarpe ti abbiano portato qui all'istante. Ma allora perché sei ancora qui in questa locanda? Puoi tornare a casa tua e viaggiare qui per il lavoro ogni giorno. Hai ancora le scarpe, è vero? No. Ron raccontò loro tutto del viaggiatore. Non abbiamo altro da darti. Va bene. Possiamo riprendere i regali che ti abbiamo fatto, se vuoi, da tutti quelli a cui li hai dati. Pensa, se chiederai la casa, non dovrai lavorare un altro giorno. Potrai stare felicemente con tua madre. Oh, se riprendi il piatto, tu e tua madre avrete il cibo più buono del mondo e non sarete costretti a lavorare sodo. Ecco le scarpe. Potrei viaggiare tra casa e lavoro in un attimo. Quale regalo dovremmo riprendere per te? Nessuno. Tutte quelle persone a cui ho dato quei regali ne avevano più bisogno di me. Sono molto contento di essere come sono. Giovane, forte e capace di lavorare. Bah, preparati. Gli angeli scomparvero e Ron andò a dormire. La mattina dopo, quando Ron si svegliò... Svegliati, figliolo! Madre, cosa ci faccio qui? Cosa? Guarda cos'è successo, figliolo! Cos'è questo? La nostra casa si è trasformata in questa dimora! Come? Improvvisamente un cigno volò attraverso la finestra e lasciò cadere un piccolo rotolo sul grembo di Ron. Ron l'aprì e lesse. Ti stavamo solo mettendo la prova, Ron. Sì, le persone a cui hai regalato i tuoi doni ne avevano più bisogno di te. Ne avevano bisogno, ma grazie alla tua gentilezza e generosità te li sei meritati di nuovo. Firmato i tuoi amici, gli angeli. Quindi Ron e sua madre vissero felici e nel lusso per il resto delle loro vite. Ma non dimenticarono mai di essere gentili e di condividere la loro fortuna con tutti quelli che ne avevano bisogno.